Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera e benvenuti a Smart City. Andiamo a Zurigo questa sera per parlare di una ricerca i cui risultati sono appena stati pubblicati su Science Robotics, che ha messo a punto una sorta di pelle artificiale sensibile, anzi direi estremamente sensibile al calore, che potrebbe essere usata un domani per rivestire dei robot con prospettive indubbiamente interessanti. Il progetto è di un team tutto italiano, capitanato dalla professoressa Chiara Daraio, ed è stato coordinato da Raffaele Di Giacomo dell'Istituto di Sistemi Meccanici appunto del Politecnico di Zurigo. Buonasera, buonasera Di Giacomo. Buonasera a lei e buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora Di Giacomo, intanto di che cosa è fatta questa pelle robotica? Dunque, la pelle è composta di pectina, che è appunto uno zucchero che è usato largamente nell'industria alimentare come gelificante. Per le marmellate di solito, no? Si usa per addensare le marmellate. Esattamente. E come siete arrivati a utilizzare la pectina per fare una pelle artificiale? Dunque, io definirei il nostro lavoro come una sorta di farmacologia dell'ingegneria, cioè noi andiamo a cercare nelle piante i meccanismi che ci occorrono, ma non per ottenere farmaci, bensì sensori. Mm-hmm. E avevamo in precedenza scoperto che le piante hanno una straordinaria sensibilità alla temperatura, quindi come si faceva nei tempi antichi abbiamo utilizzato le piante stesse per creare dei sensori. Cioè avete messo delle cellule di pianta su qualche dispositivo in modo che reagissero loro alla temperatura e voi intercettavate questo segnale. Esattamente. Invece nello studio di oggi passiamo metaforicamente a una farmacologia moderna ed estraiamo solo il principio attivo dalle piante. Cioè in pratica otteniamo dalla pectina purificata una pellicola trasparente, una pelle, che ha queste prestazioni sorprendenti. Quindi questa capacità di percepire le differenze di temperatura, dicevamo appunto in modo sorprendente, nel dettaglio, fino a che punto arrivate? Dunque è circa due volte più sensibile rispetto alla pelle umana. Di fatto dimostriamo che con questo materiale si possono raggiungere le stesse prestazioni dei serpenti. E sì, serpenti che hanno degli organi specializzati, di solito diciamo sulla punta del muso, con cui riescono a percepire il calore con una grande precisione, al punto che riescono a farsi come delle immagini termiche, no? Più o meno simili a quelle che noi otteniamo con le termocamere, anche se lì non c'entra niente la termocamera. Sì, esattamente. Loro sono talmente tanto sensibili da riuscire a localizzare una preda a distanza tramite il calore irradiato, solo perché queste membrane che hanno a destra e a sinistra del muso si riscaldano di frazioni molto piccole di grado. Di grado. E riescono a identificare che cosa? C'è un esempio che voi avete fatto molto che colpisce, insomma. Sì, noi abbiamo preso uno di quei, diciamo, quegli orsetti che vanno nel microonde, l'abbiamo scaldato a 37 gradi, la temperatura di un mammifero. Di un topo? Un topo, sì. E l'abbiamo posizionato a diverse distanze, fino a più di un metro da questa pelle, da un ritaglio di questa pelle, semplicemente in aria, quindi senza nessun sistema complicato di vuoto, e questa era capace di sentire il calore irradiato da questo piccolo topolino, diciamo, alla distanza di oltre un metro, sì, che è più di quanto è dimostrato nei serpenti. A questo punto, di questa pelle sensibile al calore, che cosa ve ne farete? C'è questa idea di usarla per i robot intanto, no? Sì, certo, lei può ad esempio spruzzare questa pelle su un intero robot e dare appunto al robot la percezione delle persone che gli sono intorno o anche del contatto con oggetti a temperatura diversa. E questo è particolarmente importante se il robot si trova a muoversi in uno spazio di lavoro dove ci sono esseri umani, o se deve per esempio dare una mano a un essere umano, o per evitare che succedano incidenti, tipo le provi a pensare se chiede a un robot di passargli la tazza del caffè e il robot non capisce che è a 100 gradi. Certo. Questi sono i problemi che possono nascere convivendo, diciamo così, con i robot. Sempre a proposito di robot, ad esempio se lei pensa di combinare un'intelligenza artificiale con un robot umanoide, è importante che questa intelligenza si formi anche attraverso la percezione sensoriale che ha dell'ambiente. Quanto più questa percezione sensoriale può essere vicina a quella umana nel suo genere, ad esempio percepire bene la temperatura ovunque nel corpo, tanto più questa intelligenza potrà capire, comprendere come comportarsi e come muoversi in spazi disegnati per gli uomini. Un altro settore di applicazione è invece quello che guarda le protesi, chi ha perso un arto, per esempio. Sì, gli arti prostetici, è molto importante per chi ha un braccio robotico o un arto robotico avere un feedback sensoriale completo. E continuo anche. Certo, perché gli permette di avvertire l'arto come proprio, appunto la propria percezione, e permette inoltre di muoverlo meglio nello spazio. Di localizzarlo proprio nello spazio e quindi anche sì, di muoverlo bene. Perché lei non sta a guardare continuamente la gamba. Certo. Se deve usare la vista non funziona bene. Invece fornendo di tutti i sensi, questo migliora moltissimo. Va bene, grazie Raffaele Di Giacomo. Grazie.